figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Bentornati da Valentina Furlanetto a Figli di un Dio minore, che anche quest'anno si occuperà di sociale, non più alle 16.55 ma in questa collocazione oraria. Per inaugurare questa stagione ci occupiamo di calcio, della Homeless World Cup, il torneo mondiale di calcio dei senza tetto che si sta disputando a Milano. Oltre 500 atleti provenienti da ogni angolo del pianeta, che simbolicamente rappresentano 1 miliardo di persone che sono senza alloggio nel mondo. Sportivamente parlando, per l'Italia è iniziata piuttosto male, con una sconfitta subita dal Ghana 6-4. Tuttavia gli atleti italiani non si rassegnano e avranno modo di riscattarsi in questi giorni, ma dietro lo sport ci sono ovviamente anche tante storie. Nella nostra nazionale, ad esempio, giocano 4 giovani sfollati del terremoto che ha colpito l'Aquila. Il capitano della nazionale invece è un lombardo e si chiama Angelo. Per forza di cause maggiori sono diventato un homeless. Poi niente, sono andato dentro un centro per disintossicarmi dall'alcol, al CEAS, e da lì ho iniziato a giocare con la squadra, diciamo, della comunità. Quanti anni ha Angelo? Io ne ho 45. E che lavoro faceva? Ero un artigiano, facevo gli stucchi veneziani, robe di bacchinaggio. Poi cosa è successo? Ho avuto un forte esaurimento, da lì non so, mi sono buttato nell'alcol, le sostanze, mia moglie è crollata dopo varie peripezie. Purtroppo, e poi è andata così, ho perso la famiglia, la casa, devo dire che la colpa è solo la mia. Quando sono arrivato nell'abisso ho cercato di arrampicarmi con tutte le forze per riemergere un'altra volta. E vivo in una comunità che mi ospita, per cui faccio il volontariato e poi niente. Senta, lei è il capitano di questa squadra, quindi insomma per lei il calcio è una passione. Sì, io ho sempre giocato a calcio, solo che dopo 20 anni mi sono ritrovato a giocarlo un'altra volta. E quindi deve giocare anche bene se è il capitano? Diciamo che mi arrangio, dai. Qual è l'atmosfera? Vi state divertendo in campo? Sì, poi c'è un fair play. Penso che questo è il più bel campionato del mondo che esiste, perché qua non ci sono vinti né vincitori, abbiamo vinto tutti. E non c'è nessun tipo di rivalità tra una squadra e l'altra, c'è un fair play che veramente è qualcosa da scoprire. Lei ha 2 figli che non vede da un po' di tempo. Mi dicevano che a sorpresa sono venuti domenica a vederla giocare. È vero. Il primo ha 19 anni, il secondo ne ha 14, è venuto un ragazzino di 14. E già lì per me è stata la più grande vittoria, altro che Coppa del Mondo. Prima di chiudere questa puntata e darvi appuntamento a domani, voglio rendere omaggio a Teresa Sarti, che proprio 15 anni fa, come oggi, con il marito Gino Strada fondò Emergency, l'associazione che ha curato oltre 3 milioni di persone nel mondo. Teresa Sarti è scomparsa pochi giorni fa. A domani.